made another hit. DJ bendiga da peso, Beatriz Kiddo. DJ bendiga da peso, Beatriz Kiddo. No, non voglio stare con Aparicito. No, non voglio stare con Aparicito. DJ bendiga da peso, Beatriz Kiddo. DJ bendiga da peso, Beatriz Kiddo. No, non voglio stare con Aparicito. No, non voglio stare con Aparicito. DJ bendiga da peso, Beatriz Kiddo. In posta privata leggo ma ti schippo. No, non voglio stare con Paris Hilton. Ti fai sanguinare, sto fumando schitto. Pelle chiara ti muovevi, chiama mai. Aria di Nirvana tipo il Dalai Lama. Mamma no, mamma è una lama, non devi usarla mai. Sento il mio cuore che si dilania, David Carradine. Ti sei vendicata peso, Beatriz Kiddo. Ti sei vendicata peso, Beatriz Kiddo. No, non voglio stare con Aparicito. No, non voglio stare con Aparicito. Ho una Paris Mora, sembra spagnolita. Viaggio solo andata, vado in Costa Rica. Diretto al punto G, doppia G e la cinta. Sonny d'oro mi chiede se fossi incinta. Amore no, stai in buone mani. Non è per il bambino, ci vediamo domani. Mi chiuderanno dentro e butteranno le chiavi. Legione, ho zero rivali. Non succede niente, suonano tutti uguali. Mi trovi a secondigliano, baciami le mani. Sparano senza il morto, pistole scacciacani. Ti sei vendicata peso, Beatriz Kiddo. Ti sei vendicata peso, Beatriz Kiddo. No, non voglio stare con Aparicito.